Noi chiediamo che vengano affrontati in maniera urgente alcune questioni che riteniamo assolutamente non rimandabili. Il tema della povertà crescente che colpisce soprattutto le donne, ce lo dice la Caritas, le donne con figli, il tema della precarietà del lavoro, la sopravvivenza degli spazi culturali e della cultura in generale, che sappiamo essere assolutamente a rischio a causa della pandemia. I nostri circoli, come tutti gli spazi culturali e sociali della città, ma di tutta Italia, in questo momento sono chiusi e sono a rischio tanti posti di lavoro, ma anche tante iniziative culturali che servono anche per rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità. Noi crediamo che sia fondamentale ragionare adesso, perché le scelte politiche che si assumeranno nel prossimo futuro saranno determinanti per il destino di tante persone e soprattutto delle fasce più fragili della popolazione. Voi avete parlato anche di welfare di prossimità. Sì, ce lo dimostra anche questa pandemia, è assolutamente fondamentale costruire delle iniziative che si prendano cura del benessere delle comunità e di farlo nei territori, soprattutto in quelli che non sono al centro, come dire, delle attenzioni dell'amministrazione, le zone più periferiche, e prendersi cura delle persone, e prendersi cura degli adolescenti e anche e soprattutto degli anziani, che probabilmente sono tra tutti quelli che hanno subito maggiormente, non solo il numero di morti, questa pandemia. Si parla di solitudine, di isolamento, quindi comunque ci sono tanti temi sui quali ragionare e sui quali costruire, come dicevamo, delle politiche di welfare di prossimità. Noi nei nostri circoli abbiamo tantissimi anziani, bisogna che insieme alle istituzioni pubbliche proviamo a costruire degli interventi che provino a sostenere e a rendere attivi queste persone. E in questo caso si è parlato appunto di coprogettazione, quindi insieme alle istituzioni pubbliche fare delle azioni specifiche per i cittadini. Sì, diciamo che noi adesso, visto anche il ruolo che giochiamo quotidianamente come realtà del terzo settore, come realtà della società civile e per il ruolo che abbiamo giocato anche in questa emergenza, crediamo sia noi, visto proprio l'esperienza che abbiamo, vogliamo non solo, come dire, prestare dei servizi, erogare dei servizi, non vogliamo essere utili solo nelle fasi di emergenza, ma vogliamo contribuire alla costruzione delle politiche sociali, delle politiche culturali del futuro della città. Quindi parliamo di coprogettazione, di coprogrammazione, perché vogliamo costruire un'alleanza, una sorta di amministrazione condivisa della città, perché credo che questo possa essere utile per rispondere al meglio ai bisogni che emergono. Nelle nuove proposte della regione si parla anche di un piano del lavoro e del clima. L'ambiente è tra i temi presi in considerazione dal vostro manifesto? Assolutamente, l'ambiente lo è e chiaramente, visto al momento le realtà che sono coinvolte, ci siamo concentrati su altre emergenze, ma crediamo che comunque il tema ambientale sia assolutamente connesso e che riguardi lo sviluppo futuro della nostra città.